Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. La morte di Mario Paciolla in Colombia ha troppi misteri e questo è un racconto che non avremmo mai voluto fare. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Un gruppo di senatori italiani presentò una solicitudine formale al primer ministro Giuseppe Conte e al canciller di ese paese per che si investighe e aclare la morte di Mario Paciolla. Su cuerpo había aparecido con heridas con arma blanca, lo que puede hacer suponer que se trataría de un asesinato. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. 16:08 in questo esatto istante è l'ultima puntata. Chiudiamo quest'oggi la stagione di Nessun Luogo è Lontano. Con me, anche quest'ultima puntata, ci sono Antonio Tali, Lara Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni e in regia Roberta Frisani. 349-238-6666, SMS e WhatsApp, domande e commenti sul tema che vi proponiamo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, ma anche Facebook, la pagina è Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, siamo su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. In queste ore sta arrivando a Roma la salma di Mario Paciolla, l'osservatore delle Nazioni Unite, la cui morte è avvolta decisamente nel mistero. In questa puntata in Nessun Luogo Lontano cercheremo ancora una volta di accendere i riflettori sulla questione, l'abbiamo ribadito più volte, affinché non diventi un Regeni 2. Cercheremo di raccontare quel poco che abbiamo carpito con la massima sobrietà possibile, sempre ricordando il rispetto per il dolore immenso della famiglia, però cercheremo anche di raccontare, come spesso facciamo, di mettere il grand'angolo, raccontare meglio in quali condizioni, in che tipo di paese lavorava Mario Paciolla. Naturalmente poi noi quest'oggi spegneremo il microfono, ma ve lo anticipo, lo riaccenderemo il 31 agosto e lì continueremo in questa battaglia. Naturalmente speriamo che non ve ne sia bisogno, speriamo che l'ultima levata di scudi della politica e l'impegno della Farnesina aiuti a fare luce una volta per tutte su quello che è accaduto il 20 luglio. 349-238-6666 per voi, mentre noi sfogliamo i nostri dossier. Sempre caldo quello che riguarda le relazioni tra Cina e Stati Uniti. A scendere in campo questa volta è il segretario di Stato Mike Pompeo. In un discorso pronunciato ieri sera nella biblioteca presidenziale Richard Nixon, ha definito la Cina una nuova tirannia, ha invitato il mondo libero a unirsi per trionfare contro Pechino. Pompeo ha quindi definito Xi Jinping adepto di una ideologia totalitaria. Se il mondo libero non cambierà, la Cina comunista cambierà noi, ha detto, usando toni in effetti senza precedenti da parte del segretario di Stato. La reazione cinese al discorso di Pompeo e alla decisione di Washington di chiudere il consolato cinese a Houston, ne parlavamo proprio ieri, descritto dagli americani come una vera e propria centrale di spionaggio, non si è fatta attendere. Infatti nelle scorse ore Pechino ha ordinato la chiusura del consolato statunitense di Chengdu, siamo nel sud-ovest del paese. La Cina ha definito questa risposta necessaria. Per il ministro degli esteri cinese la chiusura del consolato statunitense rappresenta infatti una risposta legittima e necessaria alle azioni irragionevoli, leggo testualmente, prese dagli Stati Uniti. Secondo quanto riporta il Global Times, che è uno degli organi ufficiali del Partito Comunista Cinese, gli Stati Uniti hanno tempo fino a lunedì per chiudere il consolato. Secondo la BBC vi lavorano almeno 200 persone ed è una struttura molto importante anche dal punto di vista strategico, perché consente agli americani di raccogliere anche quello che succede nel vicino Tibet. Arrivano intanto i primi messaggi al 349-238-6666, ve ne darò conto tra pochissimo quando apriremo la lunga pagina tutta dedicata alla misteriosa morte di Mario Paciolla e alla Colombia. Non prima però di avervi dato almeno una buona notizia che arriva dall'Iraq, perché è durato solo pochi giorni il sequestro di Ella Mewis, mediatrice culturale tedesca rapita a Baghdad lunedì sera. L'annuncio della liberazione è stato dato poche ore fa dal portavoce militare iracheno, il generale Yahya Rasul, su Twitter. Come ha riferito il quotidiano Süddeutsche Zeitung, non sono stati forniti dettagli sull'operazione che ha condotto alla liberazione della donna e non è chiaro se si siano stati negoziati e nemmeno se sia stato pagato un riscatto. I sospetti si indirizzavano sullo Stato Islamico, sulle brigate Hezbollah, anche se quest'ultime hanno sempre smentito ogni coinvolgimento nella vicenda. Ricordiamo, questo è l'ultimo caso di una serie di sparizioni e rapimenti che avvengono quasi quotidianamente in un Iraq attanagliato da una crisi politica e soprattutto da una crisi economica, e in cui il settarismo ancora e le divisioni anche religiose sono striscianti ma molto molto forti. E in Turchia, lo avete sentito anche da Marco Mancini, da GR24, si è svolta questa mattina la prima preghiera del Venerdì Santo per i musulmani alla moschea di Santa Sofia a Istanbul. Diciamo moschea, adesso lo è ridiventata. Per 86 anni, lo ricordiamo, era stato un museo. All'interno ammesse solo 1000 persone, il tutto per rispettare tutte le norme di distanziamento legate al coronavirus. Ha destato molto scalpore quello che è stato il riammodernamento anche interno alla ex basilica, il tutto per nascondere quelli che erano i segni sacri cristiani e invece riadattarlo al culto islamico. Quello che per la popolazione islamica di Istanbul era annunciato con un grande giorno è iniziato con strade chiuse al traffico, mezzi di trasporto deviati già dalle prime ore del mattino, e l'inviata di Al Jazeera ha sottolineato con dovizia di particolari come sostanzialmente la parte europea di Istanbul, dove sorge Santa Sofia, era praticamente sotto lockdown totale dal giorno prima, quindi da ieri sera. E infine l'ultimo dossier che vi sottopongo ha a che fare con un quadrante e una serie di problematiche che abbiamo tantissime volte raccontato in quest'anno di programmazione di Nessun Luogo Lontano, ha a che fare con la crisi in Mali, ma più in generale nel Sahel. Perché? Perché ieri si è riunito un mini consesso con i leader dei principali paesi, appunto, della fascia saheliana. Si sono riuniti a Bamako. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi la crisi politica del presidente Keita con il leader dell'opposizione, un imam particolarmente agguerrito che pesta duro e sta cercando di limare la legittimità politica di Bamako. Dice che Keita non è assolutamente in grado di gestire il coronavirus, né in grado di gestire le bande jihadiste che funestano il Mali, ma tutta la regione. Insomma, è stato un summit dove c'erano i presidenti di Niger, Senegal, Costa d'Avorio, Ghana e Nigeria, il tutto per incontrare, lo dicevo, Keita. Cosa è accaduto? Sostanzialmente un grandissimo nulla di fatto, e quindi abbiamo la nettissima sensazione che questo agosto sarà caldissimo sia in Mali che in tutto il Sahel. Questi i nostri dossier internazionali, e a questo punto andiamo in Colombia. Non c'è stata da subito chiarezza e abbiamo paura che si palesi un caso Regeni 2. Non so chi è il responsabile della missione, non so come funzionano le cose di loco, ma ripeto, questa gente necessariamente ha contatti anche, diciamo, con i gruppi illegali che sono presenti sul territorio. Se seguiamo l'ipotesi assassinio, di solito questi gruppi non hanno bisogno di camuffare il loro intervento. Per me la responsabilità delle Nazioni Unite è grandissima. Se lui avesse ricevuto delle minacce, molto probabilmente le avrebbe condivise con i colleghi. Probabilmente è filtrata, chissà, la notizia che il tipo sarà lamentato o che aveva detto qualcosa. Tante le ombre che si allungano sulla morte di Mario Paciolla, ritrovato morto il 20 luglio. Osservatore per le missioni delle Nazioni Unite in Colombia, è stato trovato nel suo appartamento a San Vicente del Caguán, a 700 km a Bogotà. È stato ritrovato la mattina del 15 luglio. Napoletano, classe 87, una laurea in scienze politiche e anche una lunga esperienza di cooperazione internazionale e in Colombia stessa. Intanto un po' di messaggi al 349-238-6666 sul tema, tra pochissimo ve ne darò conto. Prima però vi do conto di quello che ha detto, lo ricordo, oggi rientra la salma del giovane 33enne Non sono ancora noti i risultati dell'autopsia, non si comprende perché tardino così tanto ad arrivare. Ieri ha parlato il ministro degli esteri Luigi Di Maio in un question time alla Camera, sentite. Abbiamo attribuito priorità a questa triste vicenda che seguo personalmente. La nostra ambasciata a Bogotà è in contatto sia con la famiglia Paciolla, cui sta prestando la massima assistenza, sia con le autorità colombiane e con gli inquirenti, sotto la guida del procuratore generale della Nazione. Le indagini si svolgono con l'ausilio di un magistrato specializzato in questo tipo di delitti e di una squadra di tecnici forensi. Le cause del decesso sono ancora poco chiare. Siamo in attesa dei risultati delle due autopsie, sia quella effettuata dall'autorità colombiana che quella che verrà eseguita su disposizione dell'autorità giudiziaria italiana. Ovviamente saranno cruciali anche tutte le testimonianze. Questo il ministro degli esteri Luigi Di Maio, si è fatta sentire anche la voce del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, sentite. Ho sentito il ministro, ci siamo scambiati anche delle informazioni, siamo in contatto col consolato, con l'ambasciata, con altre interlocuzioni che ho messo in campo in questi giorni. Napoli è da protagonista in questo momento in tutte le sue componenti per la ricerca della verità e per fare giustizia su questa morte. E naturalmente, come immaginate, abbiamo anche noi di Nessun Luogo Lontano cercato di capire qualcosa in più con le nostre fonti in Colombia. In particolare Andrea Macchioni ha provato a strappare almeno qualche parola a uno dei responsabili delle indagini della polizia colombiana, il colonnello Oscar Lamprea, sentite. Buenas tardes, colonel Lamprea. Dos preguntas muy rápida a ponerle sobre el caso. Purtroppo, però, così come tantissimi altri attori presenti in Colombia in questo momento, non ha parlato. Ha detto che le dichiarazioni ufficiali arriveranno. È stato piuttosto evasivo. Per cui, notizie di prima mano, in effetti, non posso darvele. Quello che posso fare, è però, tra pochissimi minuti, collegarmi in diretta con Bogotà con Samuele Bregolin, fotogiornalista che ben conosce i luoghi anche nei quali lavorava Mario Paciolla, e lo ripeto, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano cercheremo più che altro di dare i contorni dei luoghi, delle modalità, di come funziona anche quel lunghissimo processo di pace, funziona o disfunziona a seconda dei punti di vista, processo di pace tra il governo colombiano e gli elementi delle FARC, che era uno dei core business, per così dire, del lavoro di Mario Paciolla. E a questo punto, per essere metodologicamente corretti, recuperiamo e andiamo a riascoltare i pochissimi fatti che sono certi e che conosciamo. Mario Paciolla, osservatore per la missione delle Nazioni Unite in Colombia, è stato trovato morto nel suo appartamento a San Vicente del Caguán, a 700 km da Bogotà, la mattina del 15 luglio 2020. Napoletano, classe 87, laureato in scienze politiche, Mario aveva già avuto diverse esperienze internazionali nella cooperazione e dal 2018 lavorava per l'ONU come garante dell'accordo di pace tra il governo centrale e le FARC, il gruppo rivoluzionario attivo da oltre 50 anni. Secondo il colonnello della Polizia Nazionale Colombiana, Oscar Lamprea, Mario Paciolla si è ucciso impiccandosi. Immediatamente però sono emerse diverse contraddizioni, tra cui lacerazioni su braccia e altre parti del corpo. Oltre alla famiglia, che non crede in nessun modo alla tesi del suicidio, l'amica colombiana Claudia Julieta Duque ha pubblicato un duro articolo nel quale rivela diverse incongruenze. Settimane prima della sua morte, Mario Paciolla racconta delle violente accuse rivoltegli da un collega che lo definisce una spia. Paciolla inoltre sblocca un lucchetto del sottotetto del suo appartamento per andarsi a nascondere in caso mi vengano a prendere, racconta all'amica. In una telefonata alla madre rivela di essersi messo in un pasticcio e di aver prenotato un biglietto per rientrare al più presto in Italia. L'ultimo segnale proveniente dal cellulare di Mario Paciolla risale alle 22:45 del 14 luglio, la sera precedente al ritrovamento del cadavere. Il rientro della salma è previsto per la giornata di oggi. Questo questi i fatti. Aggiungiamo anche un, come avete sentito da questa nostra breve ricapitolazione, è ovvio che l'Amprea, dopo le incongruenze che sono state messe in luce da tanti attori, non aveva tantissima voglia evidentemente di esporsi nuovamente con il nostro Andrea Macchioni. Detto ciò, dicevo, il governo colombiano ha assicurato ieri che farà giustizia piena. L'ANSA è riuscito a raggiungere il ministro degli esteri, che ha detto: l'impegno su questa vicenda è assoluto, la procura ha dato il caso al caso priorità facendo progressi nell'inchiesta sulla morte. Speriamo, ha aggiunto il ministero, che le indagini avanzino con la rapidità e l'efficacia che ci aspettiamo. Fra l'altro, dicevamo, ricordavamo proprio ieri, sto leggendo l'ANSA con voi, è stata coinvolta la vice procuratrice generale Marta Mancera. Questa è anche una mossa politica, evidentemente uno dei pesi massimi del sistema giudiziario colombiano, e sono previsti anche un team di forze di polizia per andare a cercare di comprendere che cosa è accaduto. I segnali sono tanti. Vi anticipo immediatamente, gentili ascoltatrici e ascoltatori, che non faremo alcuna lezione su quello che potrebbe essere accaduto, questo per un doveroso rispetto della verità. Da qui non siamo in grado di fare un'inchiesta, per cui aspettiamo che chi è deputato a questo lavoro faccia emergere e dia spiegazione sulle incongruenze tantissime di questo racconto. Invece do voce ai vostri messaggi, arrivano al 349-238-6666. Suicidio, nemmeno un cieco e un sordo potrebbero credere a questa ricostruzione. Sono abbastanza d'accordo con voi, i segni peraltro trovati sul corpo francamente non lasciano dubbio. Qualcuno ci sollecitava appunto a riportare le frasi dell'amica colombiana Claudia Julieta Duque, lo abbiamo fatto, una lunga e accorata lettera che esclude assolutamente l'ipotesi del suicidio, lo esclude in maniera, diciamo, sistematica e fattuale, ma anche dal punto di vista emotivo. All'inizio era circolata la voce che soffrisse di solitudine, ma insomma sembra chiaramente una posizione molto molto poco difendibile. Come anticipato, vi porto immediatamente a Bogotà con Samuele Bergolin, fotografo e giornalista, scrive tra gli altri per Osservatorio Diritti. Samuele, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno Giampaolo, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 24. Grazie a te per essere con noi. Partirei da una questione. Allora, non che in Italia se ne parli tantissimo, ahi noi, stiamo cercando di colmare questa lacuna. E in Colombia c'è stata attenzione da parte dei media. È un caso eclatante, perché un osservatore delle Nazioni Unite che viene trovato morto e non è sicuro che sia suicidio è decisamente una notizia. I media colombiani cosa dicono? Sta diventando un caso eclatante dal momento in cui non è più sicura la tesi del suicidio. Inizialmente questo caso non ha ricevuto, il caso di Mario, non ha ricevuto molte più attenzioni di tanti altri casi, però bisogna capire che la Colombia è un paese dove purtroppo le violenze sono all'ordine del giorno. È un paese abituato purtroppo ad avere notizia di fatti violenti, quindi ritrovamento di un corpo sembra causa suicidio di un cooperante internazionale non ha risvegliato immediatamente una particolare, non è stato immediatamente un caso eclatante. Sì. Questa attenzione è nata nei giorni con l'eco del rumore che arriva dall'Italia. Sono stati pubblicati degli articoli, l'amica di Mario, che ha scritto questo articolo molto sì. emozionale ieri sì. su Le Spettatore, è diventato ora un caso internazionale e improvvisamente le carte cambiano. Anch'io ho avuto molte difficoltà ad avere delle interviste, ad avere delle testimonianze. Sono riuscito quindi a parlare con varie persone, ma solamente in forma anonima, a microfoni spenti. Nessuno sì. ha voluto mettersi la faccia per una dichiarazione alla stampa. Sono riuscito a parlare sia con giornalisti colombiani che stranieri, con del personale internazionale che lavora nell'ambito della cooperazione dei diritti umani, che quindi più o meno conosca il modus operandi della missione ONU in Colombia, e con delle autorità dello Stato colombiano. Ripeto, nessuno ha voluto prendere il rischio di fare una dichiarazione, perché in questo momento con i dati dell'autopsia non ancora pubblicati, nessuno vuole sbilanciarsi. Certo, certo. Io volevo aiutarvi a un po' a ricreare, a ricostruire alcune, dissipare alcuni dubbi. Sì. La dichiarazione che sia stato un suicidio, almeno nel primo non momento, è una cosa normale. È abbastanza normale come protocollo della polizia colombiana, nel senso che loro hanno ritrovato un corpo, un cadavere appeso ad un lenzuolo, impiccato con un lenzuolo. Nel contesto colombiano, ripeto, non è un fatto eclatante, purtroppo. Sì. Questo tipo di assassini, gli omicidi generalmente vengono effettuati con un semplice colpo di pistola in testa, molto spesso semplicemente in pieno giorno, da delle persone a volto coperto che scendono da una moto, estraggono una pistola, sparano e se ne vanno. Questo purtroppo non è sempre così, ma nella maggioranza dei casi, insomma, questa è ciò che succede al quotidiano che viviamo qui. Sì. in sì. Colombia, quindi diciamo che da parte della polizia colombiana ritrovare un corpo appeso, impiccato, non risveglia come protocollo, il loro dovere è di restituirlo come suicidio. Sì. Io ho potuto parlare con qualcuno che lavora nell'ambito dell'informazione colombiana, che non vuole fare il proprio nome, ma che però era presente il giorno del ritrovamento del corpo di Mario. Quindi l'informazione che mi hanno dato è che i tagli sul corpo in realtà sono presenti solamente sui polsi. Questa è la notizia, l'informazione, sì, che mi hanno dato. Sì. Ovviamente questo non vuole supportare né una né l'altra tesi, certo, ma solamente dare qualche informazione in più. Per quanto riguarda il ritardo nella consegna dell'autopsia, in realtà le autorità colombiane stanno seguendo i loro protocolli. La salma di Mario è stata vista da Medicina Legal a Bogotà, quindi è stata fatta un'autopsia. Sì. Il governo colombiano si è messo in comunicazione col governo italiano, anche solo per le pratiche di invio del corpo, della, sì, salma di Mario. E i risultati dell'autopsia sono quindi stati consegnati alle autorità italiane. Sotto il punto di vista del protocollo, dal lato colombiano non c'è niente di particolarmente raro o strano che possa attirare l'attenzione. Chiaro. Ovviamente ora siamo sotto una cortina di no comment, perché è diventato un caso internazionale, e se si dovesse scoprire che effettivamente stiamo parlando di un omicidio, potrebbe essere una vera e propria bomba a orologeria per la Colombia. Non c'è dubbio, e anche mi permetto di azzardare per le Nazioni Unite, perché nel caso è evidente che c'è una sorta di responsabilità, di mancato controllo, di inazione, di non garantire la sicurezza, le frasi pronunciate da Mario, quel lucchetto, insomma, e la stessa telefonata con la madre denunciava un certo timore, una certa angoscia per quello che stava vedendo, che stava scoprendo. Ci sono molte domande che arrivano al 349-238-6666 con Samuel Bergolin in diretta da Bogotà e Colombia, un paese che Samuel conosce molto bene, che racconta attraverso le immagini, attraverso la parola, scrive fra altri per Osservatorio Diritti. Facciamo una piccola pausa, Samuel, andiamo a sentire come vanno le borse, poi la seconda pagina di Nessuno che Lontano. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in quest'ultima puntata di questa stagione di Nessun Luogo Lontano. Riaccendiamo i riflettori sul caso Mario Paciola, la cui salma sta arrivando in queste ore a Roma, ma sulla cui morte aleggia ancora una filtra colta di mistero, come ci stava raccontando Samuel Bregolin in diretta da Bogotà, Colombia. È un muro di no comment, come noi stessi abbiamo sperimentato, perché Andrea Macchioni ha provato a sollecitare un commento, una risposta al colonnello Lamprea, adesso che si sta facendo strada una seconda ipotesi, non solo quella del suicidio che in molti rigettano al mittente, anche i vertici militari non hanno nessuna intenzione di parlare. È in corso un'inchiesta, vedremo che cosa porterà. Quello che dal nostro piccolo, modesto osservatorio possiamo cercare di fare è tenere alta l'attenzione per fare in modo che anche la società civile, l'opinione pubblica italiana non dimentichi quello che è accaduto e non il caso di Paciolla non diventi un caso Regeni 2. Torniamo da Samuel Bregolin per l'ultima domanda. Samuel, che zona è il dipartimento di Caquetá dove lavorava Mario? Lo ricordo per gli ascoltatori che chiedono che cosa fa un osservatore ONU, Giuseppe per esempio. L'osservatore ONU può avere varie funzioni, nella fattispecie Paciolla si occupava proprio della transizione dei dialoghi di pace tra FARC e governo colombiano, dialoghi che hanno arrancato e hanno trovato tantissimi ostacoli. Secondo alcuni è anche inutile parlare di dissidenti delle FARC e addirittura secondo alcuni quel progetto di dialogo di pace è naufragato prima ancora di iniziare, era qualche anno fa, il 2016 se non erro, quando fu gridato al miracolo e la pace scoppiò in Colombia. Non è così, poi se avremo tempo vi darò anche i numeri di tanti leader sociali che vengono ogni anno assassinati. Non è un paese certamente comodo in cui lavorare, lo sa benissimo Samuel Bregolin, un ascoltatore dice Samuel che dalle tue parole si evince un certo timore, ma Samuel non è certo di primo pelo. Torno da te Samuel appunto, per cercare di capire meglio che zona era quella in cui Mario lavorava. Giampaolo, il Caquetá è una regione tradizionalmente sotto il controllo delle FARC, è una delle, anzi proprio una delle loro roccaforti. San Vicente de Caguán fu teatro di un primo tentativo di accordo di pace tra la guerriglia e lo Stato colombiano nel 98 con l'allora presidente Pastrana, fu nelle zone che poi fu un fracasso, non si riuscì a fermare nessun accordo, nelle zone rurali vicino a San Vicente fu dove fu rapita, sequestrata Ingrid Betancourt. È una zona, una regione influenza FARC tradizionalmente, è sempre stata sotto il controllo della guerriglia. Ora forse il problema più importante, principale, centrale è capire cosa siano le FARC oggi in Colombia. Sì. Perché sotto il nome FARC abbiamo degli ex guerriglieros che hanno deposto le armi e hanno deciso di involucrarsi nel processo di pace, che poi sono le persone con le quali lavorava quotidianamente Mario. Abbiamo dei senatori della Repubblica che fanno parte del partito politico FARC, abbiamo degli ex coltivatori di sostanze illecite che oggi si sono riconvertite, abbiamo delle dissidenze che non hanno mai partecipato a questi processi e che continuano ad avere le armi, quindi principalmente Santis e Marquez, che erano senatori della Repubblica, hanno abbandonato l'assemblea proprio per denunciare la corruzione che secondo loro ha venduto i processi di pace, e sono ritornati con la guerriglia. C'è un clima di caotico, c'è semplicemente un clima molto caotico e molto preoccupante, perché non riusciamo più a ricostruire esattamente i comandi dei vari gruppi. Si muovono in maniera indipendente, in maniera regionale, non sappiamo più chi risponde a chi. Sono stati messi in circolo anche dei falsi volantini, le varie azioni militari vengono sempre rivendicate attraverso dei volantini, il linguaggio anche ideologico utilizzato lascia a volte dubitare se siano effettivamente dei membri di tal gruppo o se siano degli altri membri che si stiano spacciando per guerriglieri o per paramilitari. È un discorso molto delicato e molto caotico. Sì. Il lavoro che fanno i volontari ONU, quelli li chiamiamo volontari ma sono dei professionisti come Mario, è un lavoro molto delicato, sono assolutamente in prima linea nella costruzione del processo di pace, certo. Sono presenti quotidianamente nel territorio, molto vicini quindi agli ex guerriglieros delle FARC. Come dicevi tu, Giampaolo, quel clima, quell'ambiente entusiasta di soli 4 anni fa sembra già praticamente molto lontano, nulla. Molto lontano, incredibile. Incredibile, molto spesso si grida al miracolo, ma quando le situazioni sono così complesse, così peraltro permeanti, e qua mi appoggio anche all'altra grande dossier che è quello del narcotraffico, permeanti anche le istituzioni, davvero risulta molto molto difficile non soltanto lavorare in quei luoghi ma anche raccontarli. C'è chi lo fa, tra gli altri Samuel Bregolin, che ringrazio tantissimo, fotografo, giornalista, l'avete sentito, la sua voce arrivava da Bogotà, Colombia, lo potete leggere fra gli altri su Osservatorio Diritti. Samuel, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille, grazie a voi, arrivederci. Allora, un po' di messaggi che arrivano al 349-238-6666. Guardate che di morti non risolte di italiani all'estero ce ne sono molte, non c'è solo il caso Regeni, ma noi, gentili ascoltatori, quest'oggi ci stiamo occupando della morte di Mario Paciolla per un semplice motivo: è una notizia, c'è il dato di attualità, arriva la salma, e c'è un aspetto eclatante, un osservatore delle Nazioni Unite, un espatriato che per la prima volta perde la vita in Colombia. Ci sono tutti gli ingredienti per far saltare sulla sedia più di un osservatore, di un analista, non soltanto dal punto di vista strettamente intellettuale, attenzione, ma anche dal punto di vista emotivo. Tanti messaggi al 349-238-6666. Senza emotività invece, la prossima ospite, che è Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, esperta di America Latina, anzi con la consueta lucidità e sobrietà ci aiuterà a colmare i piccoli tasselli che mancano in questo puzzle. Lucia, buongiorno, ben ritrovata, Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buon pomeriggio a voi. Allora, ti chiedo innanzitutto un primo commento, ma ho premesso che un commento sulla vicenda Paciolla, data la tua sobrietà e il tuo ferreo rigore nella professione, so che non ti spingerai a fare strane illazioni, però un commento devo chiedertelo. Certo, è una vicenda sicuramente triste e sicuramente sconvolgente, che un ragazzo di 33 anni che lavora per l'ONU con una lunga esperienza all'estero, Mario Paciolla aveva lavorato prima in Colombia con le Brigate Internazionali di Pace, quindi è una persona che conosceva il terreno, venga trovata morta in modo misterioso lo stesso giorno in cui era previsto il suo rientro a Bogotà e poi dopo 5 giorni in Italia. Sì. È una vicenda che lascia molte questioni aperte. Diverse persone che hanno conosciuto Mario in Colombia sostengono di non credere alla tesi del suicidio. Sono usciti 2 articoli importanti da 2 giornalisti di inchiesta colombiani che hanno entrambi conosciuto Mario, sul principale giornale colombiano, che è l'Espectador, in cui esprimevano forti dubbi sulla tesi del suicidio. Peraltro le stesse autorità colombiane hanno avviato un'indagine. Qualcosa in più si potrà capire quando avremo l'autopsia. Certo. Non è ben chiaro in che condizioni sia stato trovato il corpo di Mario. Alcuni media parlavano di appunto averlo trovato impiccato, altri di che ci fossero diverse ferite di arma bianca, quindi di un pugnale sul suo corpo. Questo appunto ce lo potrà dire solo l'autopsia. Certo, è una vicenda che al momento lascia molti interrogativi, anche per la zona in cui Mario è stato trovato morto. San Vicente del Caguán è storicamente una delle zone più complicate della guerra civile colombiana. Sì. La voce che state ascoltando è quella di Lucia Capuzzi, firma di Avvenire, esperta di America Latina. Con lei stiamo cercando di il più possibile colmare le zone d'ombra riguardanti la vicenda di Paciolla. Chiaramente sulla vicenda in se stessa tutto quello che si poteva dire lo abbiamo detto, invece con Lucia metteremo il grand'angolo per capire ancora meglio il contesto nel quale lavorava, e ne approfitto per respingere al mittente qualsiasi messaggio di questo tenore: ma se Paciolla e Regeni se ne stavano a casa, perché sono messaggi offensivi e ignominiosi, perché stiamo parlando di gente che lavora all'estero, così come tanti italiani, e così come spesso facciamo noi giornalisti, come fa Lucia Capuzzi. Quindi il messaggio tra le righe, se deve essere, se la sono andata a cercare, è qualcosa che respingo fermamente, e se arriveranno messaggi di questo tipo, ve lo anticipo, non li leggerò certamente. Lucia Capuzzi, ti faccio una proposta: andiamo a sentire come va la viabilità sulle strade italiane e poi apriamo il lungo, doloroso capitolo di questo strano processo di pace delle FARC sullo sfondo del narcotraffico. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in quest'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. In realtà continuiamo il ragionamento, cerchiamo di capire in che condizioni, dove, su che cosa lavorava Mario Paciolla. La salma è prevista, il cui rientro della salma è previsto proprio in queste ore a Roma. Con i dati dell'autopsia potremo avere qualche tassello corposo, in verità, in più per fare luce su questa vicenda. Dopo Salma Bergolin, fotogiornalista di base a Bogotà in Colombia, che già ci ha dato uno spaccato anche della complessità di questo paese, adesso con Lucia Capuzzi, inviata di Avvenire, esperta di America Latina, con il suo lucido grandangolo proviamo a mettere a fuoco un altro aspetto, che è quello delle tante bande armate, Lucia, però sullo sfondo del narcotraffico, che in qualche modo sembra permeare l'intero paese. È una delle più grandi centrali di produzione al mondo della cocaina, da lì i vari cartelli la smistano, grazie a, per esempio, alle collaborazioni con i messicani, con gli indranghetisti in Calabria, in davvero mezzo mondo. Aiutaci a fare chiarezza sul numero di attori e il loro livello di coinvolgimento col narcotraffico, Lucia Capuzzi. Allora, la grande complicazione della guerra colombiana, della guerra civile colombiana in atto da oltre mezzo secolo, è proprio il fatto che tutti gli attori sono legati a doppio filo, più o meno per procurarsi finanziamenti col fattore coca, col fattore cocaina. San Vicente del Caguán, dove lavorava Mario, è una delle zone cocalere della Colombia. Là, appunto, oltre agli ex guerrieri ormai disarmati, che appunto con cui lavorava direttamente Mario Paciolla, lavorava la missione ONU, c'è uno delle grosse roccaforti della dissidenza delle FARC, cioè di quei gruppi che non hanno accettato il percorso di pace e hanno ripreso in mano le armi. È la loro principale fonte di finanziamento è il narcotraffico, in modo ancora più marcato ora rispetto a quando le FARC erano unite, perché è venuta meno ogni forma di componente ideologica. In realtà chi ha ripreso in mano le armi lo ha fatto per trovare fonti di sostentamento. Sì. E qua veniamo a uno dei grossi problemi dell'accordo di pace. Sì. Sulla carta, l'accordo del 2016 prevedeva una serie di progetti promossi dal governo con l'aiuto della comunità internazionale tutta, che si è molto impegnata nel processo di pace colombiana, l'Unione Europea, l'Italia, l'ONU. Ecco perché non ha nessun senso dire che appunto Mario doveva restare a casa, no? Certo. Faceva parte di una missione, di un impegno di politica estera anche italiana. Al di là di questo, appunto, questi progetti di reinserimento degli ex combattenti, circa 12.000 persone che avevano lasciato le armi, purtroppo stentano a decollare. A 4 anni di distanza ancora questi progetti sono rimasti in gran parte sulla carta. Gli ex combattenti, che sono in genere persone giovani con uno scarso livello di istruzione, sono ex contadini fondamentalmente delle zone della Colombia rurale, hanno difficoltà a reinserirsi nella vita civile. Molti non hanno potuto studiare, molti non hanno fatto altro che crescere nella guerriglia. Certo. Ovviamente, trovandosi disoccupati, senza far nulla, queste persone hanno finito per riabbracciare le armi, che hanno sempre procurato loro un mezzo di sussistenza. Certo. Cioè, perdonami Lucia se ti interrompo, mi sembra di capire che quel processo avesse una profonda nevralgia, un vizio. Se tu non rendi meno opportunistico, meno conveniente lasciare il Kalashnikov, prima o poi ci si ricasca, perché è quello che sai fare, la tua educazione sentimentale criminale in qualche modo è quella, e anche se l'ideologia è un po' sfumata, quella della vecchia FARC, comunque c'è sempre la coca che da vivere, da lavorare, da soldi. Credo che sia questo il vero punto centrale, no? Creare un'opportunità diversa. In realtà sulla carta i negoziati di pace, l'accordo lo dice molto chiaramente, e aveva disegnato tutta una serie di riforme che andavano fatte, dalla riforma agraria, questi progetti di reintegrazione che dovevano in qualche modo togliere la convenienza di riabbracciare le armi. Esatto, esatto. Purtroppo non è stato fatto questo. E a questo si somma un periodo di escalation di violenza sia verso gli attivisti per i diritti umani sia verso gli ex combattenti. Sì. Molti sono stati uccisi, 25 solo da gennaio fino al 31 maggio, che erano gli ultimi dati. Sì. Quindi molti anche per paura hanno riabbracciato la via delle armi. E aggiungo all'analisi e al commento di Lucia Capuzzi un tassello. Pochi giorni fa il Columbia's Institute of Studies for Peace and Development ha pubblicato un report in cui sostanzialmente si fotografa in maniera spietata la strage in corso da anni in Colombia ai danni di leader comunitari, sindacalisti, difensori dei diritti umani, ma ne fanno le spese anche, come diceva Lucia, ex guerriglieri delle FARC che hanno deciso di abbandonare il Kalashnikov nella giungla, ma anche i leader sociali. Secondo il report, dalla firma degli accordi di pace del 2016 al 15 luglio 2020 sono stati assassinati 971 leader sociali, difensori dei diritti umani. Il 2018, con quasi 300 vittime, è stato l'anno più letale. Il 70% degli omicidi legati a conflitti per la terra, gestione e sfruttamento di risorse naturali, nel 63% dei casi i responsabili sono sicari o sono rimasti sconosciuti, e nello stesso periodo di tempo, e mi rilascio ancora al discorso di Lucia, 211 ex guerriglieri delle FARC che si stavano impegnando nel reinserimento nella vita civile, ebbene, hanno perso la vita per aver cambiato strada, in quello sliding door in cui devi decidere se stare nella foresta e continuare a fare guerrigliero o provare a reintegrarti. Lucia Capuzzi, siamo davvero in conclusione, ti ringrazio tantissimo, lo ricordo, firma inviata di Avvenire, esperta di America Latina. Lucia, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata a voi, grazie. E quindi, Roberta Fisani, vedo una lacrimuccia che scende sul volto perché l'ultima puntata si chiude la stagione e lo facciamo col nostro slogan. Sentitissimi ringraziamenti quindi a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano che ha lavorato in maniera incredibile per 11 mesi di filato, grazie mille a voi per essere stati all'ascolto e quanto avete animato questo dibattito qui in Nessun Luogo Lontano, e Radio 24 che ci permette anche l'anno prossimo di raccontare grandi storie e la grande attualità internazionale. Io come al solito cosa faccio? Beh, spengo il microfono, prendo lo zaino e vi saluto ricordandovi che Nessun Luogo Lontano. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.